giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. 22 giugno 1983. Emanuela Orlandi è una ragazzina di 15 anni. Vive a Roma. Figlia di Ercole Orlandi, un messo della prefettura della Casa Pontificia. Conduce una vita normale di mattina al liceo scientifico e di pomeriggio studia musica all'Istituto Lodovico da Vittoria. Quel giorno Emanuela arriva tardi a lezione di flauto. Ha ricevuto una proposta di lavoro, un impegno da poco, distribuire volantini per una casa di prodotti cosmetici. Sono le 19. Emanuela si trova alla fermata dell'autobus di Piazza delle Cinque Lune. L'amica Raffaella Monzi si trova di poco accanto. Adesso non me lo ricordo bene, però era vestita di blu, con lo zainetto, come è stata descritta. Lei mi ha detto solamente di un lavoro, che cercava di non dare dei volantini per l'Avon. Gli ho detto solamente che era un po' troppo per me quella cifra. Insomma, 375.000 lire mi sembrava un po' troppo per l'Avon, dare solo dei volantini. Quell'autobus, Emanuela, però non lo prenderà mai. Un poliziotto e un vigile urbano in servizio davanti al Senato la vedono salire a bordo di una BMW nera e sparisce. La macchina investigativa si mette subito in moto e anche i depistaggi. Emanuela, unica cittadina minorenne del Vaticano, è scomparsa in un luogo simbolico, inghiottita nel cuore dello Stato italiano. Nei palazzi della Santa Sede, nei commissariati di polizia, si fa strada un sospetto che diventa una pista. Terrorismo internazionale. Ma compiamo un passo indietro. Pomeriggio del 13 maggio 1981, giorno di udienza generale, Piazza San Pietro è meno gremita del solito. Una mano tra la folla impugna una pistola e spara. Dopo 5 ore in sala operatoria, Giovanni Paolo II è salvo. Il killer si chiama Ali Aşka, 23 anni, militante dei Lupi Grigi Turchi. Estate 1983. Giovanni Paolo II lancia un appello per la liberazione di Emanuela Orlandi. Ne seguiranno altri 7. Intanto avanzano nell'ombra fantomatici emissari. Uno di loro si fa chiamare l'Americano. Contatta Telefono Giallo, il programma televisivo di Corrado Augias. La polizia cerca di individuarlo, ma l'Americano fa perdere ogni traccia. Sono mesi scanditi dai comunicati del Fronte di Liberazione Anticristiano Turkish e dalle ambigue richieste di scambio con Ali Aşka. L'attentatore del Papa, in un'udienza del processo a suo carico, racconta: Emanuela Orlandi è stata rapita da agenti bulgari e dai Lupi Grigi, la calligrafia dei comunicati del terrorista Oral Çelik. Il criminologo Francesco Bruno ha studiato a fondo la vicenda. Al microfono di Daniele Lorenzetti risponde così: io interpreto la vicenda di Emanuela Orlandi come una, come dire, un'azione terroristica probabilmente eseguita da spezzoni di servizi segreti internazionali e con la complicità di criminali in Italia e anche a Roma, che hanno messo in atto questo rapimento e probabilmente, anche se non abbiamo delle prove sicure, l'omicidio di Emanuela Orlandi, per mettere in essere un ricatto nei confronti del Papa. Credo che intorno a questa vicenda poi si siano annodate tante altre vicende fatte di ricatti e di controricatti che sono venute fuori nel tempo e che ancora non sono assolutamente chiarite. Nel 1987 la famiglia Orlandi offre un riscatto, nessuna risposta. Nel 1995 dal carcere Ali Aşka cambia versione. Emanuela Orlandi è libera in un convento di clausura. 30 giugno 1997 l'inchiesta si conclude. Per il giudice delle indagini preliminari Adele Rando sussiste il fondato convincimento che il movente politico terroristico costituisca un'abile operazione di dissimulazione dell'effetto movente del rapimento. 14 maggio 2001. Il parroco della chiesa di San Gregorio VII a Roma trova nel confessionale un teschio chiuso in due buste. Le indagini escludono che sia di Emanuela. 4 marzo 2004 muore il padre di Emanuela, Ercole Orlandi, e due mesi dopo la procura di Roma riceve l'informativa di un servizio segreto straniero. Una ragazza sui 35 anni si aggira per le vie del Vaticano. I tratti del viso ricordano quelli di Emanuela, ma non c'è nulla di vero.